Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, la cronaca della giornata economico-finanziaria come sempre raccontata da Focus Economia. Allora, sicuramente l'accordo è arrivato all'alba, erano le 5 di mattina quando vi sono state le dichiarazioni più importanti, quella di Mario Draghi e anche quella di Mario Monti. Mi riferisco all'accordo sulla Grecia, ne parleremo alle 18 in maniera più approfondita. Il governatore della Banca Centrale Europea, il presidente Mario Draghi, ha detto attenzione, l'accordo è molto buono, gli ha fatto eco anche il presidente della Commissione Europea Barroso, abbiamo chiuso la porta al fallimento della Grecia, il presidente dell'Eurogruppo Juncker, l'accordo garantisce che Atene resti nell'euro, e il premier Mario Monti ha detto insomma questo accordo dimostra che l'Europa è anche in grado di funzionare, elimina i rischi di un contagio. In realtà qualche dubbio, poi il premio Nobel Krugman per esempio sul New York Times oggi lo avanza, e il dubbio è questo: tutto questo accordo si regge sull'ipotesi che la Grecia nel 2014 esca dal quello che sarebbe se non il sesto anno continuo di recessione, cioè torni a crescere. Ora, un paese che ha appena fatto il meno 7% e che andrà in recessione anche nel 2012, noi ci auguriamo tutti che esca, però questo è l'elemento più fragile. Krugman fa notare oggi sul New York Times che il vero impasse, la vera diciamo, vicolo cieco è dovuto al fatto che da un lato non si ha la forza di espellere la Grecia dall'euro e quindi permettere a lei, svalutando la futura dracma, di acquistare competitività, come ha fatto un po' l'Argentina quando ha svalutato brutalmente il peso. Un disastro per gli argentini, un'inflazione altissima in aumento, però i beni argentini ne hanno avuto un vantaggio e l'export è tornato a crescere. Dall'altro lato l'Europa non ha nemmeno la forza di dare aiuti alla Grecia, non prestiti che devi poi tornare, aiuti veri e propri, aiuti per sostanzialmente a fondo perduto. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Comunque l'effetto positivo c'è stato sugli spread, quindi su quanto costa ai paesi indebitarsi rispetto a quanto non costi la Germania. Il nostro è sceso a 347 punti, praticamente siamo sempre a 30 punti di differenza con quelli spagnoli, e Francia e Germania, la Francia rispetto alla Germania è a 104 punti. Dunque, lo stipendio, altri temi di oggi. Beh, la borsa, adesso ve la do subito. Più 11% Finmeccanica, fortissimo il titolo. Monte dei Paschi più 8,20%, Popolare Emilia Romagna più 5,5%, Popolare di Milano più 4% come l'automatica. Il 3,80% è nel Green Power, l'1,66% invece è il rialzo di Enel. Fronte opposto invece Intesa San Paolo perde il 2,40%, Impregilo l'1,80%, Luxottica meno 1,80%, Mediolanum meno 1,60%, Autogrill meno 1,5% come ST Microelectronics e Fiat. Complessivamente l'indice perde lo 0,20%, Parigi idem, Francoforte meno 0,50%, Londra meno 0,20%, l'America guadagna lo 0,35%, ieri però era chiusa per festività, euro su dollaro a quota 1,32,70. Gli altri temi che tratteremo: la stretta delle banche ai piccoli imprenditori, c'è una ricerca della Confindustria di Vicenza interessantissima su questo e quindi la affrontiamo anche dal punto di vista degli imprenditori. Dopodiché ci occuperemo chiaramente di tutta la vicenda che riguarda Mario Monti, la vicenda europea, e parleremo anche del traffico aereo, perché la SEA ha pubblicato i conti, l'aeroporto di Milano, quindi Linate e Malpensa. In occasione della BIT che è appena terminata faremo anche un bilancio con il presidente Bonomi. Ancora, per quello che riguarda l'altro grosso tema, ossia l'iniziativa di Mario Monti sul fronte fiscale, vi faccio ascoltare adesso che cosa ha detto. Non c'è il CDM venerdì, e venerdì sapremo, Consiglio dei Ministri, sapremo esattamente quale intensità, diciamo, avrà questa rimodulazione fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo che molti scrivono sia del fronte Rai, adesso ne parliamo, che che gli stipendi dei parlamentari, c'è chi dice adesso aspettiamo di vedere pubblicati anche i redditi dei conduttori di trasmissioni economiche, penso si riferisca a me, per vedere eventuali conflitti di interesse. Mi dispiace deluderla, io sono dipendente del Sole 24 Ore, sono 7.40, penso che lo possa richiedere dove vuole, cioè è una busta paga banalmente, lo so, lei si aspettava chissà quale apporto da banche, grandi gruppi, Bilderberg, la finanza mondiale, devo deludere, non conto niente. 349-238-6666, le notizie in breve. Della Grecia abbiamo già detto, andiamo avanti con l'oro in rialzo a 1742 dollari l'oncia, il petrolio a 104,8, è sempre forte, 104 dollari al barile. Allora partiamo dal fisco e poi arriviamo anche all'articolo 18 e alla RAI. Il primo ministro Mario Monti ha chiarito nella conferenza stampa da Bruxelles che per la riduzione delle tasse bisognerà aspettare la bozza per la rimodulazione del disegno di legge fiscale, e cioè quello che sarà il gettito in più che arriverà dalla lotta all'evasione verrebbe utilizzato per le fasce più basse di reddito, quindi abbassare l'IRPEF per le fasce più basse di reddito. Ha detto Monti, bisogna aspettare, ma forse riusciamo a farlo prima del 2014. Per invece un ristoro, un ristorno quantitativo dei benefici dall'evasione bisogna aspettare un momento. Lei ha tratto una conclusione cartesiana, ma forse troppo, nel dire dopo il 2014, perché nel 2013 c'è il pareggio di bilancio e quindi solo dopo da allora si può cominciare a sorridere da parte del fisco. Non è detto, perché il pareggio di bilancio, che resta un obiettivo fondamentale per il 2013, può essere perseguito con varie combinazioni di entrate e di uscite, quindi insomma ci riserviamo di disegnare un profilo tenendo conto di tutte le circostanze, compresa una legittima aspettativa del contribuente onesto a vedere non premiata la propria onestà, perché essere onesto per un cittadino è un dovere come tanti altri, ma a vedersi riconosciuta con sua soddisfazione tangibile la buona condotta. Ancora sull'ICI ai beni della Chiesa non di culto, Monti ha detto siamo in dirittura di arrivo, e poi è arrivata come attesa anche la pubblicazione dei redditi dei ministri. Allora, una cosa la voglio dire in maniera molto chiara. A non era un atto dovuto, cioè gli altri governi non l'hanno mai fatto, va bene. B, che senso ha dire avete visto che ricchi che sono Passera e per esempio la oltre la Severino, il ministro della giustizia Paolo Severino, ma scusatemi, erano professionisti prima, no? Cioè questa pubblicazione non è in qualche modo la gogna per cui se uno guadagna tanto va condannato. Corrado Passera era il numero uno della più grande banca italiana, piace o non piace. Poi sugli stipendi dei manager abbiamo fatto 1000 puntate e continuiamo a ritenere che sia troppo aumentato quello che è lo stipendio del manager rispetto allo stipendio medio del dipendente, da un rapporto 1 a 70 si è un rapporto 1 a 240 per esempio nelle corporate americane. Detto questo, però, cioè Corrado Passera sì, ha guadagnato 3 milioni e mezzo nel 2011, 8,8 milioni di azioni di Banca Intesa. La Severino, che era un avvocato, forse la penalista più importante in Italia, sicuramente come donna, ha avuto un imponibile netto di 7 milioni di euro, ha versato tasse per 4 milioni di euro e guadagnerà come ministro 195 mila euro lordi. Il ministro della difesa Di Paola guadagnerà come ministro 199 mila euro lordi. il ministro Cancellieri guadagnerà 183.000 euro lordi e via così. Clini ha una Fiat 500, ha guadagnato 177.000 euro lordi come direttore generale del Ministero dell'Ambiente. Balduzzi 199.000 euro lordi. E poi chi mi manca? Giarda, carino perché ha anche vari immobili, le baite, 4 baite. Il ministro ha legato anche le foto, un pascolo, un terreno sulle Alpi ad Alagna e Valsesia, una Seat Ibiza del 2002. Cioè, io trovo un'operazione di trasparenza, però che non venga utilizzata, no, per dire ah ecco vedi quanto guadagnano, ma lo sappiamo tutti che venivano dal mondo delle professioni, no? Cioè, voglio dire, fatemi capire, perché ho alcuni messaggi, ma siamo contro i politici o i ministri tecnici perché guadagnano troppo? No, dico, dopo aver avuto come presidente del Consiglio l'uomo più ricco d'Italia, adesso il problema è sapere se la Cancellieri o la Severino come avvocato, brava lei, complimenti, anche perché se su 7 milioni di euro dichiarati ne ha pagati 4 di tasse, mi sembra in questo paese che sia anche un contribuente abbastanza fedele, no? Andiamo avanti, là. Allora, l'articolo 18 è scontro tra la CGIL e la Presidente Confindustria Marcegaglia, che ha detto in una dichiarazione oggi: vorremmo avere un sindacato che non protegge assenteisti cronici, ladri e quelli che non fanno il loro lavoro, a margine del convegno di Federmeccanica. Noi abbiamo detto che l'articolo 18 deve rimanere per gli atti discriminatori, ma vogliamo poter licenziare quelli che non fanno il loro lavoro. Allora, noi vorremmo avere un sindacato che lotta anche fortemente con noi per tutelare i bravi lavoratori, ma vorremmo avere un sindacato che non protegge gli assenteisti cronici, i ladri, quelli che non fanno il proprio mestiere. Quindi su questo io penso che sia importante andare avanti. La CGIL ha risposto: dire come fa Marcegaglia di volere un sindacato che non protegge assenteisti cronici, ladri e chi non fa il proprio lavoro è davvero troppo, sono affermazioni non vere che offendono il ruolo del sindacato confederale, le smentisca. E anche il leader della CISL Bonanni ha detto: la Marcegaglia precisi di che sindacato parla. E poi il fronte Rai. Allora, la Rai è evidentemente una difficoltà che non si è risolta con Sanremo, perché è riuscita a fare due, tra virgolette, cappellate, termine poco economico forse, nell'arco di una sola giornata. Attenzione, perché da un lato poi sul fronte dei precari, della norma, oggi non ci occupiamo, sulla maternità, ha fatto marcia indietro. Ma ha fatto marcia indietro anche sul canone Rai per i PC. Cosa era successo? Praticamente la Rai si attendeva, quello che abbiamo capito, quasi 1 miliardo di euro, intanto dalle imprese italiane, perché ci sono 5 milioni di imprese in questo paese, ognuna ha un televisore, immaginiamo, insomma, non è una cosa così rara. Sarebbero arrivati, se applicata quella norma, 980 milioni di euro per pagare di canone. No, perché il canone speciale è imposto a chiunque detenga fuori dall'ambito familiare uno o più apparecchi atti o adattabili alle ricezioni di trasmissioni televisive. Ora voi capite che da uno smartphone a un computer ci sta dentro tutto. In realtà già alcuni avevano avanzato dubbi sulla validità giuridica, perché strumenti come i tablet o i PC, insomma, definire i televisori è un po' dura, però facevano anche notare che alla RAI questa norma del canone speciale poteva servire per intanto mettere a bilancio, poter iscrivere a bilancio un certo ammontare di crediti, poi che siano difficilmente esigibili quello si vedrà più avanti. Due ore fa la RAI ha precisato: non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer. E la lettera inviata dalla direzione abbonamenti RAI si riferisce al canone speciale dovuto nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori, fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società o enti abbiano già pagato per il possesso di uno o più TV. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È sicuramente un mondo difficile per la RAI che... Non so, ma avete ascoltato qual è il comunicato? Cioè sì, lo devi pagare, ma no, se l'hai già pagato. Non si capisce niente. Allora, è un mondo difficile, qui purtroppo dobbiamo essere serissimi per le imprese italiane. Oggi arriva un buon dato dai calzaturieri, 7 calzaturifici su 10 danno segnali di ripresa, lo dice oggi l'ANCI, ma l'accordo con l'ABI, con le banche sui debiti è un accordo a cui punta la Confindustria. Emma Marcegaglia oggi ha detto che entro giovedì probabilmente firmerà un nuovo accordo con l'ABI, con le banche italiane. Una nuova moratoria che il vicepresidente di Confindustria con la delega, che è presidente della piccola industria, Vincenzo Bocci, ha detto è un tampone, aiuterà, ci attendiamo richieste per 65 miliardi e poi comunque continua a essere molto scettica sulla difficoltà per le imprese di aderire ai requisiti di Basilea 3. Ma la cosa più interessante è un sondaggio condotto, diciamo, con una certa... spessore come numerico dalla Confindustria di Vicenza, che è una delle più grandi realtà industriali di questo paese come densità, tra gennaio e febbraio oltre 100 imprese associate, e siamo in collegamento col vicepresidente degli industriali di Vicenza. Stiamo parlando di 2.400 imprese associate, 100.000 occupati, il 90% delle quali hanno meno di 100 dipendenti. Luciano Vescovi, buonasera. Buonasera dottor Barisotti. La sento un po' basso, Vescovi, mi sente? Io sono... Ecco. Non sia così triste, già, dobbiamo ancora dare il sondaggio. Allora, su. Mi dica che cosa avete scoperto. Avete chiesto a un campione di 100 imprese, ben distribuito, quindi piccole, piccolissime, medie, grandi, come sta andando il rapporto con le banche. Il risultato? Ma purtroppo il risultato, ancora una volta, è che gli spread aumentano in maniera significativa e che il rapporto con le banche è difficile. Va detto però che proprio in questa settimana una serie di notizie, diciamo, positive stanno portando forse un vento un po' diverso, e lo speriamo di cuore sinceramente. Allora, il 28% delle aziende intervistate ha dichiarato una riduzione degli affidamenti, Corretto, e il problema è che... Cioè praticamente 28 imprenditori su 100, questa è la media. Ma il problema è il confronto, perché nel 2009 15 su 100 lo denunciavano, e nel 2006-2007, in anni normali, quando facevamo queste indagini, il 7% di solito rispondeva di avere riduzioni di affidamento. Quindi siamo passati da un periodo pre-crisi che solo il 7%, che è anche giusto, vuol dire non è che tutti... Certo. Gli imprenditori devono avere aumentato l'affidamento mantenuto. La banca fa bene anche a valutare, se valuta correttamente, di ridurre un affidamento perché si fida di meno dell'imprenditore. Però un conto era il tasso fisiologico più o meno del 7%, siamo passati poi al 15% nel 2009, al 20% nel 2010 e poi adesso al 28%. E il 46% ha avuto i fidi invariati, il 16% ha ottenuto invece un aumento. L'altra cosa è però quanto le imprese hanno chiesto nuovi mutui, nuove linee di credito. Vescovi. Sì, ma il problema è questo, che ci siamo trovati a fine dicembre che le aziende sostanzialmente sono state impossibilitate ad accedere ai mutui anche per investimenti sui 3-5 anni, perché il sistema bancario a fine dicembre sostanzialmente era ingessato e rimandava ogni tipo di operatività a febbraio. Fortunatamente con questa forte immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, annunciata peraltro una grossa immissione alla fine febbraio, ci sembra che ci comincino ad arrivare dei segnali positivi da parte del sistema bancario, cioè di riapertura. Tenga conto che noi poi, come Confindustria Vicenza, da un po' di anni diamo una pagella alle nostre banche, e questo abbiamo avuto, in questo senso abbiamo avuto dei riscontri anche positivi, perché esprimiamo dei giudizi qualitativi e quantitativi sulle banche, e questo le ha portate a una grande attenzione nel rapporto con il sistema imprenditoriale. Allora, lei mi sta dicendo che c'è comunque stato un problema di richiesta di fidi. Perché sia perché sono diminuite per 28 imprese su 100 gli affidamenti complessivi, ma anche le imprese che hanno chiesto nuovi fidi sono diminuite, solo il 26% ha stipulato recentemente nuovi mutui, metà per investimento e l'altra metà per liquidità. Qui c'è anche un problema delle imprese però, Vescovi, perché quando tu chiedi soldi a una banca non solo per gli investimenti ma per la liquidità, cioè perché devi pagare gli stipendi, i fornitori, è chiaro che la banca si rigidisce un po', o no? Ma sì, sono d'accordo. Diciamo questo, che il problema di sottocapitalizzazione delle imprese italiane è un problema endemico, storico, però è anche vero che in un momento di riduzione degli ordini è chiaro che le aziende hanno bisogno di un sostegno e abbiamo bisogno di essere traghettate oltre questo 2012. Questo chiediamo al sistema bancario. Mi arrivano continuamente messaggi di direttori di filiale, questo lo dico, non necessariamente di Vicenza, non scrivono di dove, che dico praticamente diamo soldi praticamente a nessuno. Questa è una BCC, Di credito cooperativo. Se anche le BCC però si mettono a stringere è dura a quel punto, perché per ora hanno sempre fatto anche un ruolo molto di, non di sussidiarietà, ma insomma è molto presente sul territorio le banche di credito cooperativo. Vabbè. Voi avete scoperto che i tassi praticati hanno avuto uno spread medio del 3,4% fino a picchi del 7% però. Soprattutto sul medio termine abbiamo un rialzo forte, ma è inevitabile perché è riflesso di quello che è l'andamento del mercato generale. Certamente ci sono delle situazioni in cui il 7-8%, come è successo anche a colleghi, rende di fatto insostenibile fare degli investimenti. Però, come le dicevo, abbiamo una ventata, secondo me, di piccolo ottimismo in questo momento per vari motivi. Allora, adesso arriviamo alla ventata di piccolo ottimismo. Anche qui hanno ragione gli ascoltatori che scrivono al 349-238-6666 dicendo: ma come, le banche prendono in prestito i soldi all'1% dalla BCE, danno i collaterali in garanzia e poi a me praticano il tasso al 3,5, 7, 8, dipende dallo spread. È vero, ed è per questo che però spesso parliamo dello spread italiano, cioè la banca tedesca può praticare, e stanno facendo questa concorrenza Deutsche Bank, ma non solo, anche Santander ha ragione, possono praticare dei tassi più bassi di quelli italiani, perché lo spread tedesco è bassissimo, cioè lo spread non c'è, il rendimento è a zero, e anche i francesi, per cui le nostre banche pagano anche lo spread Italia. E su questo vorrei sentirla, Vescovi, secondo lei il miglioramento di queste ultime settimane è dovuto anche al fatto che lo spread è tornato a 3,50, 3,40 come oggi? Ma sicuramente anche l'aspettativa di questa fortissima emissione di liquidità da parte di Banca Centrale Europea è un segnale importante. Tenga conto che le banche straniere stanno tentando di posizionarsi sul mercato italiano per rubare fette alle banche locali e nazionali. Quindi lo fanno in un momento in cui le banche nazionali e locali sono in difficoltà perché erano in crisi di liquidità terribile a dicembre e in parte lo sono ancora. Allora, è chiaro che queste banche fanno il loro mestiere, conquistano posizioni e poi non è mica facile scalzarle quando conquistano posizioni. È per questo che invitiamo le banche nazionali, locali, territoriali a fare la loro parte in questo momento, a stringere i denti, a rinunciare a una parte di profitti e di utili e quindi mantenere le posizioni sul mercato. Insomma, il suo messaggio è: attenzione banche italiane, che quelli vi portano via i clienti poi non tornano più. Sì, perché il denaro non dorme mai, cosa vuol dire? Non dorme mai, non puzza, non ha odore? Esattamente. Ma assolutamente, ma voglio dire, ma in un mondo di concorrenza, la banca spagnola o francese o tedesca è giusto che faccia concorrenza alla banca italiana, se pratica spread più interessanti. Chiudo: la qualità del rapporto con le banche per il 43% delle vostre aziende è peggiorata, per il 45% è rimasta invariata e il 30% delle imprese ha denunciato una non osservanza del termine minimo di preavviso di 60 giorni prima di variare le condizioni contrattuali. Questo non è bello, No, su questo in particolare abbiamo fatto una segnalazione a Banca d'Italia perché in realtà formalmente abbiamo avuto molte segnalazioni in questo senso da colleghi imprenditori, cioè formalmente le banche rispettano i 60 giorni previsti dall'articolo 118 del testo unico bancario, però sostanzialmente si fanno accordi bilaterali tra la banca e l'imprenditore e quindi si aggira la norma. Diciamo che non è che sia una cosa diffusa per fortuna, però si è verificata in maniera abbastanza sistematica. L'abbiamo denunciato, l'abbiamo segnalato al sistema bancario, ci pare di avere dei ritorni positivi in questo senso. Però allora lei ha chiuso con una notizia, spero buona, c'è un miglioramento, complice anche lo spread che cala, le banche, qualche segnale vi sta arrivando sul territorio di trattamento migliore. Purtroppo io devo dare come sempre notizie anche non buone, perché l'ultima rilevazione del gruppo Cerved ha stimato in ormai 89 giorni in media il pagamento tra imprese, non la pubblica amministrazione che viaggia amabilmente a 120 giorni, ma 89 giorni, praticamente 43.000 nel 2011 le società a cui è sollevato un protesto o una cambiale. E praticamente anche rispetto ai tempi concordati si è tutto allungato di oltre 23 giorni, e questo denuncia anche una difficoltà di liquidità tra le imprese. Vescovi, in bocca al lupo, speriamo che veramente i segnali che ne hanno dato si confermino, si consolidino. E però a me continuano ad arrivare messaggi di gente che lavora in banca da addirittura dal 98 e che non ha mai visto un periodo così. Lei è d'accordo, Vescovi, visto che insomma, qualche anno ce l'ha anche lei? Sicuramente sì, è il periodo peggiore che io abbia mai visto nella mia carriera. Bocca al lupo a lei, a tutti i 2.400 associati di Confindustria Vicenza e chiaramente a tutti gli imprenditori piccoli, piccolissimi, medi. I grandi non li cito, che quelli con le banche hanno meno problemi, o no, Vescovi? Hanno meno. Ma secondo me hanno problemi anche loro in questo periodo, e quindi credo che siamo tutti sulla stessa barca e credo che comunque il sistema Italia ce la farà senz'altro. Grazie, una bella botta di fiducia. E adesso volete che vi rilegga il comunicato dopo il meteo? Quello della RAI è veramente un'operazione, c'è il tecnico che ancora ride. Dopo il meteo, pubblicità, 349-238-6666 per gli sms e poi la borsa. 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, volete, speriamo, lo dico a chi scrive, che il vicepresidente di Confindustria Vicenza abbia ragione, stava ricordando qualche segnale di miglioramento a febbraio nel credito bancario concesso alle imprese, complice anche uno spread che comunque è a 347. No, ma volete, vedo molti che si stanno accanendo sia su Facebook che con gli sms sulla RAI. Allora, abbiate anche un po' di comprensione, nel senso che non si può parlare male di un concorrente, non è elegante. È chiaro che la RAI in questo momento è in un periodo difficile, ma anche un riferimento politico chiaro alla RAI. Il governo tecnico chiaramente non glielo può dare, e lo si è visto anche con Sanremo. È riuscita anche a incasinarsi con la vicenda delle precarie e la maternità, ma il direttore generale lei ha detto che in realtà la norma può essere rivista. E poi c'è la vicenda di chi deve pagare il canone, i portatori di PC e di tablet. Allora, si attendeva quasi 1 miliardo di euro dal canone speciale imposto a chiunque detenga fuori dall'ambito familiare uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive, e quindi tablet, computer, quello che volete voi. Visto che ci sono le imprese, erano quelle del mirino, no? Imprese, società, uffici. Sono 5 milioni solo le aziende in Italia, immaginando che ogni azienda abbia almeno un computer che può andare in su streaming o abbia un iPhone o un tablet, si arrivava a 1 miliardo di euro, 980 milioni. Intanto la RAI poteva scrivere il bilancio. Si è sollevato il mondo, giustamente a mio avviso, e oggi la RAI ha precisato, e qui voglio la massima serietà perché molti ascoltatori hanno detto sembra una cosa che poi vi facciamo ascoltare. La RAI non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer, lo ha precisato la direzione abbonamenti RAI. La direzione abbonamenti RAI si riferisce al canone speciale dovuto nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori, fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già pagato per il possesso di uno o più TV. Tarapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai con Befalina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapia tapioco. Mondo difficile. Ce l'avete suggerita in tantissimi, il mitico Tognazzi, Nemici miei, che ha una certa età, se la ricorda anche la la supercazzola. Allora, altre notizie che arrivano dal mondo dell'economia sulla moratoria. Volete sapere, il vice presidente Confindustria Bocci ha detto la moratoria sarà una misura tampone. Giovedì dovrebbe esserci la firma tra Confindustria e ABI, quindi le banche italiane, per una moratoria dove le attese sono più o meno intorno ai 65 miliardi di euro. Cosa prevede l'accordo? Da quello che abbiamo capito, lo stesso tasso di prima, e anche il fatto che le aziende che hanno già ne hanno già beneficiato per un debito bancario lo possano riavere. Misura tampone, e questa è una cosa. Però parliamo di borsa, e adesso sì che c'è una bella notizia, è vera. Poco fa il Dow Jones ha toccato i 13.000 punti ed era un livello della borsa americana che non si vedeva dal 2008, dal pre-crisi. Gallo. E con questo gallo introduco Guido Maurino, Radio Colle sulle 24 ore. Buonasera, Guido. Buonasera. Beh, insomma, il Dow Jones veramente a 13.000 punti non lo si vedeva dal 2008. Ora non basta un gallo per far primavera o per fare una mattina, però questo unito a altri elementi, abbiamo l'indice Nasdaq in America, quello degli istituti tecnologici, che è ai massimi dal 2000. Insomma, lì la borsa ha ripreso in maniera più robusta. Veniamo a casa nostra, Finmeccanica più 11,70%. Sì, oggi ci sono state delle indiscrezioni pubblicate da Sole 24 Ore, secondo cui il governo starebbe studiando il possibile ingresso della Cassa Depositi e Prestiti tramite il Fondo Strategico e delle Ferrovie dello Stato in Ansaldo Breda, che è una controllata di Finmeccanica che fa materiale rotabile, vagoni e altre cose, e che è storicamente in perdita. Negli ultimi 6 anni ha accumulato perdite da 1 miliardo, più volte si è tentata di venderla senza riuscirci. Insomma, se Finmeccanica si liberasse, per così dire, di questa grana, sicuramente sarebbe una buona notizia. Il mercato ci scommette e Finmeccanica guadagna. Sì, poi la Cassa Depositi e Prestiti viene utilizzata, no, dappertutto in questo periodo come un jolly, la si vuole dovunque, vabbè. Ma vediamo. Monte dei Paschi invece qui non c'entra la CDP, praticamente ha guadagnato anche oggi l'8,80% a 39 centesimi per azione. Si continua anche qui in questo caso a guardare invece ai nuovi soci che potrebbero entrare a rilevando... O Clessidra o Equinox. O magari anche entrambi, sono molte le ipotesi allo studio in questi giorni. Si guarda anche al possibile rientro di Profumo, che anche questa è una, è una cosa che in qualche modo potrebbe cambiare un po' gli assetti di Banca Monte dei Paschi. Si parla di lui come possibile nuovo presidente, visto che Mussari ha annunciato già che non si ricandida. Staremo un po' a vedere. Vedo molti messaggi sul Dow Jones a 13.000 punti, non è che in bolla. Adesso ragazzi, non è che possiamo dire se è sotto le cose vanno male, se raggiunge il livello 2008 è in bolla. Intanto ci è arrivato, il che vuol dire che i titoli in borsa in America, anche i titoli industriali, non solo quelli tecnologici del Nasdaq, sono ai livelli del 2008. E poi vediamo, adesso non chiamiamo le bolle che non arrivano, chiamiamo il traffico invece, poi continuiamo con i titoli. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, allora, Guido Maurino, chiarito Monte dei Paschi, insomma ancora Clessidra ed Equinox, e di nuovo le voci su Alessandro Profumo come presidente. Le banche in realtà, nonostante uno spread buono a 347 punti, non sono andate tutte nello stesso modo. La Popolare Emilia Romagna ha guadagnato il 5,70, la Pop Milano il 4,60, ma sul fronte opposto abbiamo visto Unicredit perdere l'1,30% e Intesa San Paolo essere la peggiore, meno 2,36%. Sì, diciamo che oggi le banche sono andate in ordine sparso, in particolare le vendite hanno colpito Intesa San Paolo dopo che ieri il presidente del consiglio di gestione Andrea Beltratti, a borsa già chiusa, era stato molto prudente sul dividendo, aveva fatto questo invito ai soci della banca a guardare sul lungo periodo, che è un po' come dire che sostanzialmente il rischio è che quest'anno non ci sia grosso granché da distribuire. E oggi, appunto dopo queste dichiarazioni, Intesa San Paolo ha ceduto il 2,36%, Per quello che riguarda le altre banche, nessuna notizia in particolare, alcune banche che sono considerate più italiane approfittano maggiormente quando lo spread si avvia verso il calo, l'abbiamo visto altre volte con la BPER e BPM, che oggi BPM ha guadagnato il 4,62% e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna il 5,68%. Ancora torniamo su DRS, su ST Microelectronics. Dopo il botto di ieri era immaginabile anche qualche realizzo, qualcuno che ha venduto, ma poco, è 0,96% il calo. Non ho dato l'indice, non l'ho dato perché è un meno 0,07, cioè è un agente segreto, non è un indice. Parigi meno 0,21, Londra meno 0,29, Francoforte meno 0,60, l'America più 0,30% in questo momento. Invece altri titoli che vorrei commentare con te sono innanzitutto il gruppo Ligresti, quindi Fondiaria SAI, che oggi ha perso il 6,40% e invece sul fronte opposto, vabbè, il miglior titolo tra quelli più importanti è Finmeccanica, l'abbiamo già detto. Poi vorrei arrivare anche a T-Media. Fondiaria SAI. Sì, per quello che riguarda Fondiaria SAI, oggi meno 6,43% in borsa dopo che Unipol, che è appunto candidata al salvataggio della Galassia Ligresti, ieri ha inviato un esposto alla Consob chiedendo sostanzialmente di fare chiarezza sull'andamento del titolo delle ultime settimane, un titolo che si è mosso al rialzo, spesso in modo anche molto consistente, molto disordinato. Unipol a questo punto in qualche modo chiede anche alla Consob di intervenire per qualche modo per garantire questo salvataggio. Oltre a Fonsai ha perso anche la Milano Assicurazioni, meno 89%, da segnalare che entrambi hanno avuto volumi molto alti, anche Unipol ha ceduto oggi il 2,31%. Bene, la Fiera di Milano più 6%, Buongiorno più 6,15%, Mediaconto più 6,20%, Monte dei Paschi più 8,80%, Kerself più 11% e Ciccolella più 10,37%, fanno vivaistica. Sea Therapeutics meno 7,70% e invece RCS Media Group meno 4,26%. T-Media. Sì, oggi T-Media ha comunicato i risultati che sono ancora in peggioramento sia sul fronte dei ricavi che sul fronte dell'EBIT al netto delle poste straordinarie. Una parte della consolazione arriva dal fatto che la Sette continua a veder crescere la raccolta pubblicitaria e l'audience. Comunque i risultati che avevano leggermente spinto il titolo subito dopo la pubblicazione, alla chiusura non sono stati confermati, T-Media ha ceduto il 2,63%. Ancora sui titoli, volete sapere il gruppo Fiat? Fiat meno 1,40%, come Autogrill meno 1,40% anch'essa, Mediolanum meno 1,16%, Tenaris meno 1%, STMicroelectronics meno 0,90%. Tra chi ha guadagnato anche l'automatica più 4,20%. Novità sull'automatica? No, niente, ancora sempre la questione di ieri su sì. questo ricorso contro la multa della Corte dei Conti da 100 milioni, nessun'altra notizia in particolare, un accordo commerciale con Alitalia, ma non tale da giustificare un 4,20%. E poi il gruppo Enel oggi si è ripreso, Enel più 1,60%, Enel Green Power più 3,92%, ci sono novità su questo, Guido? No, semplicemente alcuni report positivi. Report positivi. Campari più 0,60%, Ansaldo più 0,70%, e ancora, attenzione, volete sapere, no, guardate che Eni, eccola qua, poco mossa, meno 0,17% e anche Snam meno 0,28%, chiudo con Fiat Auto, avete ragione, non l'ho data, meno 0,75%, euro a quota 1,32,58, grazie a Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso c'è il GR, poi di Aeroporto di Milano parliamo domani, non ce la facciamo oggi. Prima di arrivare alla Grecia però vorrei, all'accordo sulla Grecia, presentarvi un accordo importante perché riguarda il mondo dei Confidi, ma non le imprese, sempre di credito stiamo parlando, ma non alle imprese, ai liberi professionisti, che anche le partite IVA sono in difficoltà in questo momento, non ci sono solo gli imprenditori, avete ragione. E infatti c'è un annuncio importante su questo, si stanno creando i primi confidi con una quota ancora molto bassa a cui possono accedere le partite IVA e i liberi professionisti in generale. Ne parliamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri SMS. Le 18:06, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, sulla vicenda dichiarazione della Presidente Confindustria Emma Marcegaglia sull'articolo 18, avete appena sentito il passaggio audio nel nostro GR, c'è adesso una nuova precisazione dopo le parole della CGL e anche della CISL, della Presidente Confindustria. Dice Emma Marcegaglia in una nota: nessuna mancanza di fiducia e rispetto nei sindacati confederali con i quali abbiamo firmato l'importante accordo del 28 giugno sul lavoro e con i quali stiamo conducendo una trattativa seria e costruttiva. Va tuttavia rimarcato, però, aggiunge Marcegaglia, che a volte l'articolo 18 diventa un alibi dietro il quale si possono nascondere dipendenti infedeli, assenteisti cronici e fannulloni. Allora, parleremo, vedremo che cosa uscirà dall'accordo e a quel punto dall'accordo, dal governo, perché il governo ha detto, l'ho detto ieri Mario Monti, che la riforma del mercato del lavoro si farà con o senza l'accordo con sindacati e Confindustria. Va detto che da Confindustria ha sempre, per voce della Presidente, sostenuto che l'articolo 18 si può tenere per quello che riguarda le discriminazioni in azienda, ma è anche vero, questo lo sappiamo tutti, che qui il problema, dovremmo farci un'intera puntata, la faremo a breve, che la sentenza dei tribunali del lavoro è nel 99% dei casi a favore sempre del lavoratore. Ora è ovvio che va tutelato il lavoratore, ma ci mancherebbe, però delle volte sappiamo tutti che in questo paese, diciamo così, riuscire a espellere un lavoratore a tempo indeterminato in quanto assenteista fannullone è difficile, questo non possiamo nascondercelo, per cui benissimo che vi sia l'articolo 18 per la tutela contro le discriminazioni in azienda o nella società in cui uno lavora, un po' più di flessibilità anche nella capacità di valutare il dipendente ci vorrebbe, a mio avviso, in altri paesi. Cioè, detto ciò, vedremo con cosa uscirà il governo. Occupiamoci adesso invece di chi non ha l'articolo 18, e mi riferisco ai liberi professionisti, e che comunque ha difficoltà nel rapporto con le banche. Perché? Lo dico perché sono appena stati lanciati i primi due confidi che non si rivolgono alle imprese nel rapporto con le banche, quindi nel migliorare il merito di credito nei confronti delle banche, ma ai liberi professionisti. Siamo in collegamento con il presidente di Confprofessione Gaetano Stella, buonasera. Buonasera. Allora, tra l'altro la Confederazione Italiana Libere Professioni e Confprofessioni, i due confidi che avete lanciato si chiamano Fidiprof Nord e Fidiprof Centro Sud, riguardano, se ho ben capito, una platea potenziale di 2 milioni di professionisti. Intanto iniziamo col chiarire a quanto è il capitale di cui potete disporre come capitale sociale. Quando li abbiamo costituiti li abbiamo fatti col capitale minimo previsto di 100.000 euro, però poi il patrimonio deve raggiungere nel più breve tempo possibile 250.000 euro di patrimonio, che stiamo già raggiungendo, ma comunque ci posizioneremo sicuramente su un patrimonio molto più importante, anche perché intendiamo raccogliere adesioni da tutti i professionisti. Ne abbiamo già raccolte oltre 600 e quindi siamo già un buon numero per patrimonializzare i confidi. Il confido, lo spiego anche a chi ascolta, è un'altra strada, più che un'altra strada, è una strada complementare alla linea di credito classica in banca per un'impresa. Però noi ce ne siamo sempre occupati proprio nel settore delle imprese, perché i confidi sul territorio permettono, anche con le garanzie che portano, alle imprese di accedere a una liquidità non sufficiente, ma insomma, meno male che c'è. Cosa vuol dire rivolgersi ai professionisti per i confidi? Beh, innanzitutto vuol dire che anche i professionisti cominciano ad avere dei problemi per quanto riguarda l'accesso al credito, perché non è più l'isola felice di una volta il mondo professionale. Anche i professionisti, in conseguenza della crisi economica che ha colpito le imprese, cominciano ad avere delle difficoltà economiche e anche delle difficoltà di incasso. D'altra parte i professionisti ormai sono sempre di più di un'entità economica e sociale, diciamo, importante, sono assimilati le piccole e medie imprese sempre di più, e quindi ritengo che quegli strumenti che prima erano riservati solo alle imprese o alle piccole e medie imprese, è giusto che anche adesso possano essere riservati ai professionisti. Come funzionerà? Nel senso, funzionerà nel modo classico con cui funzionano i confidi per le imprese? E se sì, ce lo può confermare? Ecco, noi diciamo però nel modo dell'impresa è un modo un po' diverso, perché visto che non c'è una strutturazione delle confederazioni a livello provinciale, quindi si baserà su una piattaforma informatica telematica con la quale si potrà accedere direttamente, rispettando determinati parametri, un accesso diretto al credito, e poi avremo dei comitati tecnici che potranno gestire le pratiche per pratiche più complesse. Ecco, ma voi li immaginate complementari alla richiesta della banca o anche alternativi? Potrebbero essere anche alternativi, ormai sempre di più le banche, si sa che purtroppo si assiste a un fenomeno al contrario, mentre prima servivano per ottenere un tasso di interesse più vantaggioso i confidi rispetto alle condizioni mediamente praticate nel sistema bancario, adesso invece purtroppo è proprio diventato una modalità di accesso al credito, nel senso che ci sono sempre meno denari che le banche mettono a disposizione delle piccole e medie imprese, ma anche dei professionisti, e conseguentemente, visto che i confidi sono stati patrimonializzati anche dal governo Monti con il recente intervento, ritengo che sia un sistema proprio per concedere credito. Che caratteristiche dovranno avere i professionisti, cioè di qualunque libera professione, dai qualunque commercialisti ai medici? Sia per professionisti ordinisti, diciamo, cioè regolamentate, sia per professioni non regolamentate, che chiunque può iscriversi ai confidi. La quota è 250 euro, quella prevista per legge. Ma anche una partita IVA normale? Sì, anche partita IVA normale. Sì, bisogna avere la partita IVA, perché l'unico requisito fondamentale è che il professionista, certo, eserciti un'attività professionale. In libera il professionista professione. Dipendente, cioè. Ecco, il dipendente non può accedere ai confidi perché è aperto soltanto a coloro che hanno una partita IVA. Ultima domanda, Presidente Stella, ma 250.000, quanto rivedete, non sono un po' pochini per 2 milioni di professionisti, quindi la platea potenziale? Sì, ricordiamo, diciamo però che la platea dei professionisti è una platea importante. Le banche sanno comunque che il professionista ha delle caratteristiche diverse rispetto alla piccola e media impresa, cioè voglio dire che l'indice di rischio è più bassa rispetto all'impresa mediamente, per le caratteristiche stesse del credito, per l'esercizio dell'attività professionale e altro. E quindi in questo caso abbiamo probabilmente già avuto dei contatti con degli importanti istituti di credito per ottenere un indice di patrimonializzazione molto alto, che quindi ci consente anche con importi di capitale relativamente bassi di poter avere una patrimonializzazione importante e poter subito operare. Cioè, facciamo un esempio concreto, io sono un medico, un dentista, un commercialista, quello che volete voi, e ho bisogno per vari motivi, anche investimenti nello studio, qualcosa, di, poniamo, 20.000 euro o 30.000 euro, la banca nicchia o comunque mi pratica dei tassi molto alti, mi rivolgo a voi, cosa succede? Viene da noi, paga la quota di 250 euro necessari per diventare socio, poi dopodiché fa la richiesta di affidamento o direttamente alla banca, cioè può essere la banca stessa che indirizza presso, chiede l'assistenza dei confidi, oppure dai confidi, e poi si presenta all'istituto bancario prescelto dal cliente con il vostro affidamento. Esatto. Va bene, quindi speriamo che comunque lei non mi ha risposto sul capitale, un po' bassino, 250.000 euro, no? 250.000 è molto basso, ma noi pensiamo di arrivare molto più alti, per cui voglio dire, è soltanto una partenza, dato che aumenterà il numero di soci, sarà molto molto molto di più di quanto non sia adesso, abbiamo appena iniziato la nostra attività, per cui saremo pronti tra un paio di mesi, 2-3 mesi, e quindi in quel momento lì saremo sicuramente con un capitale molto più alto. Grazie Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella. Buonasera. Allora, vedo molti messaggi nel frattempo sull'articolo 18, ma per carità, che la mia faziosità sia fastidiosa è un giudizio, però non ho capito perché scrivete, alcuni scrivono che sto sempre con gli statali e vorrei la giungla nel privato. Ho detto semplicemente che c'è un problema anche nella pubblica amministrazione, ne abbiamo parlato con i sindacalisti, ricordo ancora una discussione abbastanza accesa con Angeletti della UIL. Loro sono contrari alla mobilità nella pubblica amministrazione, non si va da nessuna parte, non solo in senso federale, se tu non puoi spostare alcuni dipendenti dei ministeri da una parte all'altra o della pubblica amministrazione in generale, comuni, province. No, io facevo un ragionamento in generale, cioè che è giustissimo tutelare che non vengano, che non si verifichino disuguaglianze nel trattamento di un dipendente, e ci mancherebbe, discriminazioni, però è anche vero che cioè, la tutela sulla possibilità di cacciare, si può dire cacciare il fannullone, cacciare l'assenteista cronico, quello che ti porta certificati in continuazione, è pari a zero, nel senso che nella maggior parte dei casi i tribunali e i giudici del lavoro danno ragione al lavoratore, che va tutelato perché è la parte debole nei confronti con l'azienda, pubblica o privata, ma non può sempre aver ragione, no? Tutto qui vale per il pubblico e per il privato. Adesso però il traffico e poi parliamo di Grecia. Ultima parte di Focus Economia. Allora, è arrivato poco dopo le 5 di questa mattina l'annuncio dell'accordo raggiunto a livello europeo, l'Eurogruppo, il via libera del nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia, 130 miliardi, sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che c'erano quasi 14 miliardi di obbligazioni greche in scadenza il 20 marzo, cioè di debito che la Grecia deve ristrutturare e sottoscrivere nuovamente, e senza questi aiuti saltava tutto il piatto. Definiti anche i termini dell'accordo con i creditori privati, quindi le banche, ma non solo, anche i fondi, perderanno il 53,5% del valore nominale del prestito che hanno concesso alla Grecia. E queste misure dovrebbero consentire di ridurre il debito dall'attuale 163% del PIL al 120% entro il 2020. E questo è l'accordo. Ci sono alcuni però e alcuni dubbi. 349-238-6666 per i vostri sms. Perché? Perché secondo me oggi è illuminante il premio Nobel Paul Krugman sul New York Times, che dice in sostanza: il problema è che tutto questo accordo si basa sull'ipotesi che la Grecia torni a crescere dopo 5 anni di recessione nel 2014. E Krugman mette in evidenza quello che poi è il paradosso della situazione greca. Cioè, non si può fare come con l'Argentina, non si può svalutare il peso perché è dentro l'euro e non la si vuole cacciare dall'euro, che avrebbe una conseguenza devastante sulla Grecia come potere d'acquisto, però permetterebbe alla Grecia di esportare qualcosa in più con una svalutazione enorme della nuova dracma. Ma allo stesso tempo, dice Krugman, non si vuole aiutare la Grecia, cioè continuiamo a prestare soldi che la Grecia dovrà ritornare, quando invece servirebbe un vero e proprio piano Marshall di aiuti a fondo perduto. Il piano è stato applaudito da Mario Draghi, dal presidente della Commissione Europea Barroso, dal presidente dell'Eurogruppo Juncker, anche il nostro Mario Monti ha detto: è una dimostrazione che l'Europa è in grado di funzionare e toglie i rischi di un contagio. Vorrei sapere però il commento di un economista, da sempre nostro ospite, e io ricordo sempre che fu il primo a individuare i rischi della crisi con i mutui subprime, estate del 2007. Pensate, il professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Buonasera. Buonasera. Allora, professore, sì, vedo già i messaggi, che è anche il marito di Elsa Fornero, ministro attualmente, nonché nostro ospite più volte, ma non chiederò un commento sul governo al professor De Aglio, no? Credo però. Sembrerebbe inelegante. Allora, ha ragione Krugman nel dire che c'è di fondo un eccesso di ottimismo, è tutto basata su una visione della Grecia che nel 2014, oppure era l'unica soluzione possibile perché ormai non c'era più tempo? Direi che tutte e due le cose sono vere. C'è un eccesso di ottimismo che si è costruito ad arte. Credo che tutti sappiamo bene che questo piano nel lungo periodo non può tenere, ma insomma l'ammalato è stato operato, è stato rimandato in reparto, per il momento non corre rischi e poi Dio provvederà. Mi pare che la logica sia un po' di questo genere: i rischi sono un po' lontani, quando arriveranno c'è una specie di rinvio del problema principale, cioè il problema, come lei diceva, è quello del funzionamento dei rapporti tra un paese membro della moneta unica e la moneta stessa, che lo ingabbia, gli toglie una parte della sovranità e gli impedisce di difendersi in una situazione di questo tipo. Ecco, quindi lei dice, se posso forzare l'analisi, è un po' come mettere la polvere sotto il tappeto, insomma, perché se il problema... Un pochino sì, sperando che insomma questo tappeto non debba essere scoperchiato per un po' di tempo e poi appunto nella storia le cose cambiano, chissà cosa succederà di qui a un po' di anni. Ma perlomeno abbiamo passato l'emergenza. Speriamo che le pulizie, diciamo, di primavera arrivino nella primavera del 2014 a sto punto, per usare... Sì, infatti, vediamo poi allora che cosa avrà fatto, come sarà fatta l'Unione Europea. Ecco. Va anche forse sottolineato che quasi contemporaneamente a questo accordo c'è stato questo documento di 9 capi di governo che delineano un certo tipo di futuro piuttosto liberista dell'Unione Europea. Quindi credo che l'immobilismo attuale non lo rivedremo più. Beh, speriamo, perché un anno e mezzo per salvare un paese che vale come il PIL del Veneto, insomma, si poteva anche metterci un po' di meno, ammesso che lo si sia salvato. Però lei, delle due ipotesi che fa Krugman, cioè quella di fare alla Grecia la fine dell'Argentina, cioè esci dall'euro, svaluti, per un po' i tuoi abitanti avranno una iperinflazione importata, ma tu riesci a esportare qualcosa... Oppure gli aiuti tipo Piano Marshall, quale delle due avrebbe preferito? Io le vedrei tutte e due assieme, non sono contraddittorie l'una con l'altra. Vai fuori dall'euro e noi ti aiutiamo con diciamo aiuti materiali. Il vero problema per cui non si fa non è il debito greco, no. È quello che ci sta dietro al debito greco, cioè le scommesse sul debito greco, che sono di un ammontare molto superiore al debito stesso, non si sa bene chi le ha. E si ha paura che se la Grecia va fuori dall'euro e dichiara quindi che non pagherà più, c'è un terribile test per questo mercato dei credit default swaps, perché potrebbe fallire una parte di quelli che hanno emesso i buoni di scommessa. Allora, i CDS, credit default swaps, sono praticamente delle scommesse su quanto sarà il premio pagato sulla polizza per assicurarsi sul rischio paese, la traduco un po' così. È come se quando un automobilista, se un bravo automobilista paga un basso premio alla polizza assicurativa, se un automobilista a rischio paga un altro premio. Ecco, immaginate che c'è un mondo che scommette su come sarà il tuo premio, cioè, quindi se aumenterà o no. Questo mondo vale, compresi derivati, futures e quant'altro, 55 volte il PIL mondiale, non sulla Grecia, su tutti. Però è chiaro che se inneschi un effetto domino lì, non sai dove vai a finire. Però dovremmo cominciare di lì. Sì, prima o poi. Prima invece poi bisogna... ce la prendiamo con la Grecia, che è solo un piccolo esempio. Cioè, le dice, meglio iniziare a ridurre l'ammontare di carta e di scommesse che stanno sopra un paesino come la Grecia, con massimo rispetto, piuttosto che continuare a massacrare i greci. Lei la convince, professor De Aglio, il fatto che siccome non possiamo buttarla fuori dall'euro e quindi non possono svalutare una futura dracma come ha fatto invece l'Argentina, si dice a questo punto gli abbassiamo il costo del lavoro, cioè la svalutazione la creiamo e quindi rendiamo la Grecia più competitiva perché abbiamo abbassato i salari minimi, quindi il lavoro greco costa sempre meno. Io non credevo a quello che leggevo. Anche lei l'ha letta però questa, perché i tedeschi se ne sono usciti con questa bella... Schäuble stesso. Non credevo a quello che leggevo perché è la punta finale di un piano fatto con un cinismo mostruoso, cioè qui le persone umane non contano. Bravo. Questo che mi sembra difficile da accettare, soprattutto in un'Unione Europea che si vanta di avere i valori della libertà, della personalità, eccetera, eccetera, e poi al momento buono va a tagliare con la massima disinvoltura salari già bassi. Per carità, i greci ci hanno mentito, hanno un sacco di cose di cui farsi perdonare, però non si può prendersela con la gente in questo modo. Cioè, un conto è punire, un conto è umiliare. Certo. E questo secondo lei da dove nasce? Cioè, perché insomma, arrivare a dire noi non ti buttiamo fuori dall'euro perché molte banche tedesche e francesi ti hanno preso i soldi, ci sono tutte queste scommesse che valgono decine, centinaia di miliardi sui CDS relativi alla Grecia, però a questo punto, cioè, ti teniamo nell'euro perché sennò pagheremo anche noi le conseguenze, ma ti riduciamo, dimezziamo gli stipendi del mondo e tagliamo, licenziamo 15.000 fino praticamente a 150.000 dipendenti in 5 anni, a che logica risponde? Rim- ma la logica è che tutti devono essere tranquilli all'interno dell'Europa e quindi la Grecia non deve creare dei problemi. Cioè deve morire silenziosamente, diciamo, senza fare troppo rumore. Non voglio dirlo, ma insomma così. Che Mao diceva che questo funzioni, perché la Grecia è un paese piccolo e lontano e quindi non importa niente a nessuno. Diceva Mao che l'importante è strangolare il gattino lentamente senza che se ne accorga. In qualche misura, non vorrei citare Mao perché diciamo che non fa parte del mio bagaglio culturale, ma sostanzialmente la cosa è di questo tipo. E l'autore di tutto questo secondo lei è tedesco, parla tedesco, olandese? Ma guardi, l'autore, come in tutto questo mondo globale, non è del tutto identificabile con una nazionalità, parla finanza e parla alta finanza in qualche misura, anche dall'altra parte dell'oceano. E quindi è tutto un meccanismo che si sente minacciato da questo caso anomalo di un piccolo paese. Quindi dal suo punto di vista di logica finanziaria la soluzione migliore possibile è proprio quello, gli mettiamo la pezza sopra, quello che succede alla gente appunto ha un'importanza secondaria in questo quadro, ma così riusciamo a tirare avanti, poi gli orizzonti di questi non sono mai molto lunghi. Ah no, anche perché appunto si sposteranno su qualche altro paese, ma l'importante è non perdere adesso. Illuminante, come sempre, professor De Aglio. Grazie a Mario De Aglio, appunto, che insegna economia internazionale all'Università di Torino. Mi sembra un giudizio più che chiaro, abbiamo posticipato il problema, intanto sopravviviamo altri due anni, i greci sopravviveranno male altri due anni e poi vedremo, l'importante è non disturbare i manovratori della finanza, la forza un po' così. Grazie professore, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.